progetto Calamaio è un progetto della cooperativa Caparlante e Associazione Centro Documentazione Handicap, che a Bologna lavora da più di 30 anni sulle tematiche della disabilità e dell'inclusione scolastica e sociale. Il progetto Calamaio nello specifico lavora da più di 30 anni nelle scuole, sempre sulle tematiche dell'inclusione, attraverso animazioni rivolte ai bambini e condotte da persone con disabilità e non. E ovviamente in questa fase anche voi avete dovuto ripensare un po' tutto. Come lo avete fatto? Devo dire che una caratteristica che ci ha facilitato molto e che ci appartiene per necessità, avendo a che fare con la disabilità, quindi la difficoltà, la caratteristica è quella della creatività, per cui appena si profilava un po' l'ipotesi, l'idea di questa chiusura, abbiamo cominciato a pensare come avremmo potuto continuare a essere vicino alle persone, alle famiglie, e abbiamo attivato gli strumenti e le risorse che avevamo a disposizione, quindi prevalentemente la tecnologia, e abbiamo immaginato tutta una serie di attività che potevamo proporre e realizzare anche a distanza. Ecco, possiamo fare qualche esempio? Gli strumenti che utilizziamo sono quelli che stiamo utilizzando tutti, per cui abbiamo creato un gruppo chat su WhatsApp molto numeroso, dove siamo tutte le persone con disabilità, tutti gli educatori, tutte le volontarie del servizio civile, e quello è un contenitore, è come se fosse un CDH virtuale, lì accade un po' di tutto, ci salutiamo alla mattina, ci comunichiamo le cose, condividiamo, diamo le consegne per le attività eccetera, poi chiaramente ci sono le mail, ci sono le videochiamate con diversi strumenti, ogni settimana sperimentiamo piattaforme diverse per capire quella che è più adatta, perché chiaramente dobbiamo andare un po' incontro alle necessità di tutti, disabilità di tutti, eccetera. Per quanto riguarda le attività, abbiamo provato a tenere la struttura della settimana al CDH, per cui abbiamo giornate di laboratorio, quindi mercoledì e venerdì per esempio c'è il laboratorio sulla cura di sé, la conoscenza di sé, e l'educatrice si collega con le persone con disabilità attraverso Messenger, dà delle consegne, poi vengono condivisi un pochino i vissuti rispetto all'attività che viene svolta, più o meno stessa procedura ma con altri strumenti avviene il venerdì con il laboratorio sull'orto, che è un laboratorio per noi abbastanza nuovo ma che insomma si presta molto bene in questo momento, per cui l'educatore prima realizza un video che pubblica su YouTube, le persone con disabilità lo guardano da casa e poi ci si collega tutti insieme per vedere di realizzare l'attività proposta nel video. Poi ci sono le attività individuali che sono consegnate diciamo singolarmente dagli educatori alle singole persone con disabilità, quindi attività di scrittura, traduzione di libri in simboli con la comunicazione aumentativa alternativa, che sono tutte attività che noi svolgiamo normalmente al CDH. In questo periodo di chiusura delle scuole è emerso da più parti anche un problema legato all'accesso alla tecnologia, visto che tutto si è spostato sul versante diciamo così tecnologico. Voi registrate lo stesso problema? Sì, necessariamente, perché anche le famiglie delle persone con disabilità o le persone con disabilità hanno diverse situazioni fra loro, per cui c'è chi ha molti strumenti e anche la possibilità di persone che aiutano a usare gli strumenti, perché io posso avere una disabilità importante, tanti strumenti a disposizione, ma non essere autonoma nell'utilizzarli completamente da sola, per cui se ho qualcuno che mi aiuta nell'utilizzo chiaramente li posso sfruttare, altrimenti no. Per cui abbiamo, per chi non ha internet per esempio, non riesce ad attivarsi e mettere a disposizione questo tipo di strumento, facciamo un po' di fatica, però per esempio un'altra attività è quella della visione di film, poi risposta a domande sul film, sull'argomento del film, per questo cerchiamo di non dare film che siano presenti solo, che so, su YouTube completi o altri canali sempre online, ma nella programmazione televisiva che non è sempre di altissima qualità e almeno negli orari in cui magari le persone con disabilità riescono a guardarlo, per cui questo offre dei limiti, però allo stesso tempo si riesce ad arrivare un pochino a tutti. Peraltro abbiamo invece con il tecnico della cooperativa comunque abbiamo attivato anche un aiuto da remoto, per cui nell'installazione di programmi, un paio di nostri utenti che sono presso un centro residenziale si sta attivando l'utilizzo di un tablet che possono essere in collegamento con noi tramite video chat, cerchiamo persona per persona di vedere che cosa è possibile attivare. Insomma, un grande sforzo tarato anche sulle persone. Che impatto sta avendo dal punto di vista psicologico e emotivo questa situazione sulle persone con disabilità? Dal nostro punto di vista, poi è chiaro che non possiamo avere un osservatorio molto completo, perché siamo qui a casa nostra, anche se anche in questo momento noi stiamo facendo una riunione con gli educatori per aggiornarci su tutte le persone, cosa stanno facendo, come stanno. Noi settimanalmente facciamo due riunioni proprio per aggiornarci un pochino tutti, però comunque non riusciamo ad avere un quadro completo. Sappiamo quando non stanno bene quando ce lo dicono, ovviamente, e cerchiamo però di sentirli spesso, più spesso possibile, sia via telefono, via messaggio, videochiamata, per sentire proprio come stanno e quindi avere comunque un monitoraggio e anche dare un contenimento rispetto a quelle che sono le preoccupazioni, le paure, la fatica a stare da soli, e quindi c'è un confronto diretto, costante, non solo con loro ma anche con le famiglie che sono disponibili a farlo, che hanno piacere di avere questo confronto e questo contatto, per cui abbiamo dei feedback da parte delle famiglie molto positivi, ecco, perché sentono che i loro figli sono comunque accompagnati, non devono solo i genitori farsi carico di questo sostegno in un momento dove le risorse sono anche un po' limitate, ecco.